con il comico Saverio Raimondo che registrerà CCN, il suo programma TV a Roma, al Teatro Golden, dal 6 al 9 maggio 2019. Saverio, ben trovato. Grazie, grazie. Beh, per dire ben trovati, però dovete venirmi a trovarmi veramente, qui dovete venire al Golden o lunedì, martedì, mercoledì o giovedì sera, non ci sono scuse. Anche perché sono registrazioni aperte al pubblico, raccontaci tutto. Assolutamente. Allora, CCN è il programma che faccio per Comedy Central, questa è la quinta stagione. Comedy Central è un canale che sta su Sky, quindi è un canale a pagamento. Quindi le registrazioni hanno questa cosa ghiotta che uno può vedersi il programma, lo spettacolo, che poi noi trasmettiamo in televisione gratis, al contrario appunto dell'abbonamento al satellite. Quindi l'occasione è particolarmente ghiotta. Basta scrivere una mail a ccnpubblico@freemantle.com e voilà, uno è dentro al Teatro Golden e può assistere allo spettacolo. Registriamo due puntate a sera, sono due puntate da mezz'ora, il pubblico dal vivo assiste integralmente allo spettacolo che poi va in televisione, quindi, come dire, più di così non so, posso venirvi anche a pulire casa, insomma. Senti, ci descrivi un po' questo format? Ma guarda, è un tipico late show satirico all'americana, quindi facciamo una serie di, diciamo, editoriali satirici sugli aspetti, i macro aspetti dell'attualità, quindi dalla violenza negli stadi all'inquinamento della plastica, consenso elettorale all'euro, eccetera, eccetera. E poi ci sono una serie di ospiti che quest'anno ho sempre portato in esterna, quindi a fare delle esperienze fuori, ospiti che vanno da Valentina Nappi a Giancarlo Magalli, quindi meglio del Censis siamo stati nello scegliere un campione statistico di umanità, e il pubblico studio assisterà proprio a queste esperienze filmate che nel corso dell'ultimo mese sono andato a fare in giro con gli ospiti. È una nuova stagione, com'era nata? Ce ne sono state ben altre quattro, questa è la Quattro. quinta, questa è la quinta, è andata bene, se no non saremmo arrivati alla quinta stagione, ovviamente. Com'era nato tutto? Il programma è nato proprio con la volontà di realizzare anche qui in Italia un late show satirico, diciamo all'americana, modello con il quale in qualche modo sono cresciuto, sempre ammirato, eccetera, e che ho avuto quindi l'occasione su Comedy Central di metabolizzare e personalizzare. È nato così ed è nato bene, nella misura in cui non solo ha avuto il successo che ha avuto qui in Italia, ma è addirittura un programma che poi è stato rifatto in Spagna, in Sudafrica, in Germania, quindi insomma è addirittura diventato poi un programma internazionale. Quali sono i tuoi riferimenti culturali e comici? Sicuramente Woody Allen per me resta il riferimento aureo. Dal punto di vista del late night, David Letterman è stato sicuramente la mia formazione, ancora oggi è un mito indiscusso, ma amo moltissimo anche quello che poi lo ha sostituito, diciamo, nella conduzione del late show della CBS, che è Stephen Colbert, che è un comico più satirico, se vogliamo, e quindi per certi aspetti più vicino alle mie corde. Ma in realtà le mie corde un po' abbinano i due, perché io ho sia un profilo satirico alla Colbert che un profilo stupido alla Letterman, diciamo così, o meglio, insomma, quelle sono le ispirazioni, ovviamente. Io non arrivo a essere un gigante come loro, mi attengo al mio nanismo, È insomma. una continua lotta con l'attualità politica, a volte non ti senti scavalcato. No, la mia fantasia riesce sempre a superare la realtà. La realtà è peggiora, ma resta banale. Al contrario, invece, la fantasia satirica può sempre inventare qualcosa di più. Ci lasci dei riferimenti oltre a quelli che ci hai dato all'inizio sul web, dove si può cercare per il tuo programma? Ma sicuramente potete cercare sui miei profili social, quindi basta cercarmi come Saverio Raimondo su tutti i social alla disposizione, oppure anche sui social di Comedy Central, dove soprattutto da quando la trasmissione partirà in onda, quindi da fine maggio, cominceranno anche a girare una serie di contributi online. Sono 4 giornate per 2 puntate, Quattro per giornate. 2 puntate ogni giorno, quindi 8 sarà il. Otto totali, esattamente. Oh. Da che periodo a che periodo andranno? Andranno in onda a partire dal 24 maggio, ma appunto si possono assistere in anteprima solo questa settimana, da lunedì a giovedì, al Teatro Golden, via Taranto, Roma. E allora un saluto e un ringraziamento al comico Saverio Raimondo per CCN o CCN, no, Come vi pare. come vi pare, il suo programma TV. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima, Grazie, Saverio. grazie a voi, ciao, Ciao. ciao.